Rock FM. Rock FM. Rock FM. La domanda di quest'oggi, come spesso e volentieri accade, riguardava la stramberia di un losco personaggio della storia del rock and roll, Iggy Pop, allora cantante degli Stooges, che si presentò a un concerto alla Big Ballroom vestito in maniera un po' particolare. La soluzione numero uno presupponeva che si fosse presentato con una camicia da notte stile 800 che gli arrivava fino alle caviglie, faccia dipinta da mimo e con una parrucca afro fatta torgendo dei fogli d'alluminio e con le sopracciglia rasate. Beh, era così. Tutto questo sembra inverosimile, sì. ma le devo dire, DJ Ariele, che proprio questa è la soluzione esatta. Ipotesi A era quella azzeccata. Quindi Iggy non si presentò mai con un cesto di verdure marce scaraventate al pubblico, questo lo faceva lei. Sì, gli Schiantos, certo. Fu mai interrotto un suo concerto a causa di megarista. Sì, diverse volte, devo dire. Ed era sbagliata anche l'ipotesi 3, che prevedeva un vestito da paperino che un po' alla Elton John, ma in divisa da gerarca nazista, era un'invenzione. Vabbè, speriamo voi abbiate azzeccato. Non rasatevi le sopracciglia. E comunque continuate ad ascoltare Pane, Burro e Rock and Roll. E se posso in chiusura fare i miei complimenti alla redazione. La paghiamo per questo. Ringrazio l'ufficio economato, l'economato e l'ufficio ragioneria. E dicevo complimenti alla redazione perché trova sempre queste teste attitudinali. Viva, così sfiziosi. Pop and the Stooges, ed è subito casino dalle frequenze di Rock FM, la miglior colazione attualmente in circolazione. La squadra si chiama Pane, Burro e Rock and Roll. L'Ariele, Spadino, Fricantoni, il nostro stegista, l'impagabile, impagato stegista che ci aiuta. Immaginate come possono essere folli le riunioni di redazione di Pane, Burro, Rock and Roll. Dovremmo filmarle e pubblicarle da qualche parte. Ragazzi, quest'oggi siete tantissimi, è un vero piacere. Io non vorrei poi essere banale nel ringraziarvi tutte le volte, ma è veramente un piacere sentirvi reattivi, vedervi sul nostro, al nostro 3351007777, sentire i vostri umori e farvi arrabbiare, ripeto, è una cosa che ci piace parecchio. Sappiate che per questa puntata ne abbiamo un servo un'altra di cosa che farà impallidire parecchi di voi là fuori. Freak, con questa ci cacciano. Se c'è all'ascolto qualche critico musicale, è meglio se cambia radio, perché tra poco faremo una cosa che sarebbe meglio non fare. Ma facciamo lo stesso. Intanto, siete in tanti via sms, ma devo assolutamente tributare un saluto a Ste da Sesto San Giovanni, che ha un'idea geniale via mail. E come il più delle volte, è grazie alle vostre idee che poi ci inventiamo cose per Pane, Burro e Rock and Roll. Quindi grazie in particolare a Stefano. La sua mail si chiama Corruzione. Per chi non l'avesse ancora capito, domenica prossima, qui a Milano, in occasione di un concerto degli Schianto, a Cascina Mollue, presenteremo la patente da vero rocker, che tanto vi abbiamo raccontato in queste 91 puntate di trasmissione. Finalmente, forse, finalmente ve la presenteremo. Lui ha questa idea, la mail si intitola Corruzione. Scrive così: la consegna delle patenti da vero rocker si avvicina, la febbre sale. Può un concorso serio non vantare nemmeno un tentativo di corruzione? Impossibile. Mi offro quindi per ovviare all'inconveniente, offrendovi una fornitura annuale di chinotto per il maestro Fricantoni e di grappa friulana per il DJ Ariele. Grazie, tra l'altro, non aver preso me per un ubriacone e lui no. In cambio di una patente da vero rocker. Certo di non essere l'unico che tenterà di corrompervi, mi permetto di suggerirvi: perché non indire un concorso nel concorso e premiate veramente il miglior tentativo di corruzione con una patente? Cazzata? Siete meravigliosi, buona giornata. Caro Ste, certo che è una cazzata e in quanto tale è fondamentale. Quindi in un post scriptum segnala anche: se poi deciderete di fare questo concorso dei corruttori, ricordatevi che sono stato il primo, Ste ce lo ricorderemo. Adesso vedremo di inventarci qualcosa, ma l'idea mi sembra veramente azzeccata, mi sembra precisa e quindi è accettata, vagliata, buona, corrompeteci pure. 8:41 minuti primi. Frick, sei sicuro di farlo? Guarda che si arrabbiano. Non si possono toccare a certe canzoni, si arrabbiano. Vabbè. Eric Clapton, Lay Down Sally. Buona giornata, ragazzi. There is nothing that is wrong wanting you to stay here with me. I know you've got somewhere to go, but won't you make yourself at home and stay with me? And don't you ever leave. to see the morning light, color in your face so dreamily. So don't you go and say goodbye, you can lay your worries down and stay with me. Don't you ever leave. Talk to. Lay down, Sally. There's no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. Lay down, Sally. And rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally. There's no need to leave so soon. I've been trying. Vano tentativo di convincere Frick a non fare una nuova rubrica. Questa è Lay Down Sally, Eric Clapton. Io temporeggio bevendo spuma, citando un altro grande autore italiano che non nominerò in, volendo bene a Frick Antoni, perché è un nemico e quindi non lo citiamo. Vado con altri saluti, sempre al 335 1007777. Ma le sopracciglia, sinceramente, a che cosa servono? Lancia lì. Chi si presenta il 30 settembre con le sopracciglia rasate, patente D, con il cap, davvero rocker. No dai, sopracciglia rasate no. No. Saluti a Bacisa. Ariele, hai letto sul tuo blog? Ho scritto il link per vedere Frick Antoni con il mio amico Diego. Faglielo vedere che è una cagata, ma fa ridere. Te l'ho già fatto vedere, abbiamo apprezzato tutti quanti. Voi là fuori, se volete capire di cosa stiamo parlando, amore.net, il sito della mia formazione, oppure tramite radiorockfm.com, entrate nel mio blog e capite di cosa stiamo parlando. Ah, eccoli qui. Allora, Marco... A forza di dire che troppa roba è rock, non rischiate di sputtanare il termine? Boh, no. Sì, non so. Noi lo facciamo per tirare a campare, Marco. Per prendiarci uno stipendietto piccolino per quello che è, ma è. E ce lo teniamo. Ah, eccola, Enrico da Livorno. Questa riguarda San Gennaro. Per chi non avesse ascoltato oggi... Grazie a un amico napoletano abbiamo sdoganato San Gennaro, decidendo che il miracolo di San Gennaro è rock. Da Livorno commenta: ragazzi, cosa ci troverete di rock in qualsiasi cosa di religioso? Hai presente cosa ha fatto nel passato la nostra amata chiesa? Parapim parapam parapim parapam. Enrico, stiamo a scazzà! Si fa così, hai capito? Tipo ironia, stupidate! Non prendiamoci troppo sul serio. Vabbè, questa è in spagnolo, non la leggo. Firmata Pistolas. No, allora se è Pistolas la leggo, a mio rischio e pericolo. Hola, tornados da Madrid, felices de sentires nuovamente panes burros el mastaltrons. Postscriptum, una volta ti giocavi il cervello, ora giochi al lotto. Piccoli ma significativi progressi. Il tuo analista Pistolas. Ben svegliato, Pistola. Pistola era un fedelissimo del pomeriggio, che ormai di mattina se la dorme. Mannaggia lui. Ma vorrei salutarvi tutti. Come posso fare? Angelo, grazie per il complimento. Vado con la musica. Vado con la musica. Vedo già il nostro stegista con chitarra in mano. Aia. È andata, ragazzi. Mi gioco il posto. 8 e 48 minuti primi. Ricordatevi di me. Questo è David Bowie, Heroes. A tra pochissimo con una nuova rubrica. Forever.

From Bologna. From Milano. Rock FM. Not Fade Away, The Rolling Stones, della fine, vabbè, proprio la fine, My Only Friend. Terminiamo qui la puntata di Pane e Burro Rock and Roll, archiviamo la puntata numero 13 che andrà su RadioRockFM.com tra qualche minuto. Amici, grazie per essere stati con noi, io Spadino lancerei la sigla. Si risente domani, se non accade nulla, alle 7 precise del mattino. E avremo ancora 2 ore per stare alle stronzate. Pane, burro e rock and roll. Vi ringraziamo. La tua colazione rock. Per averci insultato e quant'altro. Pane, burro e rock and roll. Voi lo vogliate o meno, domani siamo qui, dalle 7 alle 9. It may be good. Yeah! Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Tanti sono i commenti che stanno arrivando e che presumo continueranno a arrivare per la versione di Hey Jude trasformata in Hey Judita. Sappiate che ne abbiamo ancora tante altre da proporvi, quindi iniziate a prepararvi. A qualcuno, come al solito, piace, a qualcun altro no. Insomma, noi siamo qui. Si risente domani. Oggi sono un po' emozionato, Spadino, oggi, perché li sento vicini. La puntata mi è piaciuta, quindi insomma vi ringrazio tutti quanti. Per quanto riguarda gli appuntamenti del weekend, venerdì sera sarò a mettere un po' di buon rock and roll dalle parti, dagli amici toscani. Inaugureremo questo nuovo locale che proporrà del buon rock and roll ogni venerdì sera. Si chiama Charlot, ingresso gratuito. Venite a trovarmi a Colle Salvetti, in provincia di Livorno, Villa del Colle, via Milano 31. Sarò io e il mitico Dome la Muerte. L'altro appuntamento importantissimo è quello di domenica prossima, qui a Milano, domenica 30 settembre, il giorno della patente da vero rocker, con Roberto Fricantoni, Spadino. E Spadino, il tuo primo incontro col pubblico. Sei un po' emozionato, eh? Gli Schiantos dal vivo e appunto Pane, Burro, Rock and Roll che presenterà la patente da vero rocker. È tutto per oggi, ragazzi, a domani, vi voglio tutti quanti e anche di più. Mi raccomando, spargete la voce.